Questa è la seconda parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Mezz'oristi all'ascolto, benvenuti anche a voi. La sfida: arrivare intatti alle 9 del mattino anche stamane. Sfida accettata, sfida che vinceremo, spero. Buona giornata dall'Ariele, dalla squadra di PBR, Pane, Burro e Rock and Roll. Puntata 164. Ci trovate come ogni santissimo giorno al 335-100-7777 oppure ad ariel@radiorockfm.com. Sì, che epico, è epico questo secondo inizio, è molto epico, me lo gusto, guarda. Quasi fantascientifico. Resistete, siamo in squadra insieme. Gliafai o gnafai? Gliafai, gliafai, coro che fem. Man. Giornata molto particolare quella di quest'oggi a Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 164, come ampiamente ricordato, dedicata in maniera particolare allo sfondo del vostro desktop. Continueremo ancora a leggere i vostri SMS e soprattutto vedremo di contattare il buon Andre 147, colui che ha tentato di tanare, che ha lanciato la sfida ai colletti bianchi, agli impiegati all'ascolto di Rock FM, quindi dei veri rocker, come è giusto che sia per quelli che sono all'ascolto di Rock FM. Ma non vogliamo non occuparci di un altro grosso problema, il precariato che attanaglia la nostra società sempre di più, e attanagliando la nostra società attanaglia anche i veri rocker come Roberto Fricantoni. Quest'oggi cosa gli facciamo fare? Beh, torniamo a fargli fare da babysitter, perché no? È un lavoro che gli viene molto bene, visto i risultati che ha avuto con DJ Francesco, no? Buongiorno signor Frick. Buongiorno dottore. Le lascio Sofia, mi raccomando. Ma stia tranquillo, sono un babysitter diplomato. Allora Sofia, Peppina mia, tesoro, guardiamo un film che è ancora presto per mettersi a letto, eh? Ok, cosa guardiamo? Non so, vuoi vedere Cenerentola, La Sirenetta o La Bella o la Bestia? Non me le frega sul vassoio d'argento le battute, Fripp. Scusami? E comunque è Frick, non Fripp. Scusa, vorresti dire? Niente, niente. Guardiamo Il silenzio degli innocenti? Beh, a dirti la verità, Sofia, mi sembri ancora un po' troppo piccola per vedere un film del genere. Ce l'hai contro i nani? No, no, no, no, no, no, no, cara. Ce l'ho contro i nani che non vogliono fare i nani. Ah, ok. Beh, questa volta mi hai fregata tu. Allora vada per Il silenzio degli innocenti, anche se volevo vedere Cenerentola. Ecco, brava, così mi piaci, Sofia. Ogni tanto riconosci che devi darmi ragione. O mi hai fregato? Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Sky. Signori all'ascolto, avrei da proporvi un abbraccio con fuoco e davanti due agnelli appesi, appena sbuzzati. Secondo voi è rock? Questo ci chiede Duccio da Firenze in un SMS dove confessava il suo desktop sul satanista andante, caro Duccio, ma grazie mille per la segnalazione. Eh sì, non c'è bisogno di avere le borchie e il capello lungo, basta avere un bel desktop rock and roll e subito mi diventate dei veri rocker. Salutiamo un altro, un ingegnere, Paolo, con sfondo del suo computer affidato ai Morbid Angel, mentre qui Maurizio, ancora, proseguiamo, mi propone una copertina di Deep Purple in rock a tutto schermo. Tra l'altro, Maurizio, spero tu sappia che la copertina di Deep Purple, proprio del disco in rock, è anche parte del calendario 2008, l'anno della svolta, con al posto delle facce dei Deep Purple ovviamente i personaggi di Rock FM. Vi avevo mai parlato del calendario 2008, l'anno della svolta? Questi alcuni dei vostri desktop dove sfogate la vostra rocchitudine, altri a questo punto vista l'ora nella seconda parte di Pane, Burro e Rock and Roll, dove chiuderemo, spero, questo super sondaggio dedicato agli sfondi rock and roll del vostro desktop. We'll be right back. Carta, carta stampata dalla nostra redazione. Carta canta, villan dorme. Buongiorno maestro, è pronto per i compleanni del giorno? Certamente. No, ma si svegli per favore, eh? Dobbiamo dove dare sono? La carica. Dove sono? Era pane, burro e rock and roll, il risveglio. Ah, eccolo, esatto, il programma del risveglio. Lei apprezzava Staglio e Olio? Staglio Olio, Stan Laurel, Oliver Hardy, sì, esatto. Erano i miei preferiti. Sa perché glielo ricordo? Perché Oliver Hardy nasceva proprio il 18 di gennaio dell'892. Il virginiano della coppia, eh? Un amico americano mi ha detto che è molto più divertente la traduzione italiana dell'originale statunitense, perché vuoi l'interpretazione del grande Alberto Sordi, che appunto doppiava Oliver Hardy, abbiamo detto doppiava con perfetto unisono. Che sintonia, che musicisti. Dava due motivazioni. Sì. Uno il doppiaggio di Oliver Hardy. Ah, di Oliver Hardy. Staglio e del suo amico americano, si ricorda? Americano, sì, diceva. Bello, A per il doppiaggio in italiano di Sordi, B. Sì. B per il fatto che... Vede che basta rimetterla in carreggiata, poi riprende. Guardi che vado al prossimo compleanno se non chiude, No, volevo dire, chiusura, per il fatto che lui parlava virginiano con questa larga espressione, come sarebbe, non so, la scuola, se un italiano parlasse con tutte le vocali larghe, ma non così piacevole come, come questa. Quindi un doppiaggio creativo, questo del grande Alberto Sordi, onore al merito. Bene, bene, proseguiamo invece con il compleanno di Cary Grant, purtroppo scomparso qualche annetto fa nell'86, che nasceva oggi nel 1904. Pensi in ignoranza, io lo avrei personale, lo ammetto, sono un pozzo di ignoranza, io lo avrei sempre definito un attore statunitense, Cary Grant. E invece britannico, almeno segnala la redazione, se ne assume la responsabilità. No, può essere, ci sta, l'ha copiato da qualche parte, non è che lo sa lui. Ricordiamo Notorious, L'amante perduta, Intrigo internazionale, oppure Operazione sottoveste. Lei si è mai sentito un po' Cary Grant? Naturalmente, in Operazione Petticoat. Sì. Sì, ero da giovane, si intende, ero spiaccicato la sua copia. Va bene. Sa che l'ho intervistato. No, ma sì, no, io proseguirei con una sua collega. 1925, collega non di Mike Buongiorno, ma di Frick Antoni, una grande cantante italiana. 1940, fatevi voi i conti, nasceva Iva Zanicchi. Iva Zanicchi, una donna dal grande talento. Una donna con un grande naso per la musica, per la musica, per l'arte, un grande orecchio. Ma soprattutto una cantante, una grande professionista, che però sul labiale diventa creativa, è molto creativa sul labiale, cioè, quando fa un playback il creativo. Playback, lei ha notato questo, della carriera della Iva nazionale, lei ha notato solo questo. Ma naturalmente di questa mano zingara, ma ce lo dimentichiamo. Ma no, finché la barca va, dove la mettiamo? No, era lei. Non so, poi altre, il ballo del qua qua dove lo vogliamo mettere, insomma. No, credo sia di altri interpreti, chiudiamo. Ho fatto confusione. Sì, chiudiamo con il 1955, buon compleanno Kevin Costner. Ciao, balla coi lupi e tutte quelle altre robe. Robin Hood, JFK. Un caso ancora aperto, JFK. Grande Kevin, ascoltatore di Pane, Burro e Rock and Roll, il suo risveglio. Nato nel 55, di un anno solo più giovane di Frick Antoni. Ma lei così, a primo sguardo, sembra più giovane di Kevin Costner. La ringrazio. Prego. Tenga i 50 euro che le avevo promesso. Grazie. siamo quasi pronti ad archiviare la prima ora di diretta di questo maledetto venerdì da vivere assieme, archiviare la puntata 164 su RadioRockFM.com o sul nostro contatto MySpace, non prima però di aver detto mamma che emozione, c'è la radiopromozione, vai Spadino! Anche quest'oggi vi ricordiamo che Panorama ha selezionato per voi la più grande musica rock di sempre. Gli album leggendari che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo. Gli artisti divenuti vere e proprie icone del rock, i brani che rimarranno nella storia della musica. Da oggi in edicola con Panorama troverete i Dire Straits con il classico Making Movies, il disco che ha segnato lo storico successo mondiale della band, una tracklist indimenticabile grazie a pezzi di culto come Tunnel of Love e la romanticissima Romeo and Juliet, un disco che è un autentico capolavoro del rock. Da oggi in edicola, in allegato a Panorama, troverete Dire Straits Making Movies, quindi tutti in edicola e mi raccomando, dite che vi manda pane e burro e rock and roll! Tanto agonismo, un impegno intenso, ma poi pane, burro e rock and roll. Per essere tenero e delicato anche con te stesso. Perché ti vuoi bene.